Grazie, Pastore. Sono importanti per me le tue parole. Oggi mi sento un po'... mi manca la mia metà. Mio marito questa mattina doveva essere a Napoli, o vicino a Napoli, allora è ancora in viaggio. Buonasera, Chiesa. Buonasera, che piacere essere qua. Che piacere poter lodare insieme a Dio, che piacere, che piacere. Io credo che non c'è un'altra cosa più buona su questa terra che essere corpo, essere famiglia e lodare al nostro Padre insieme. Che privilegio, soprattutto lo capisci quando sei stato in posti dove quello è vietato. Lì prende un valore estremamente grande. E è così, abbiamo un privilegio. Non prendiamo questo tempo come qualcosa scontata, qualcosa che facciamo ogni domenica, come un'abitudine. Veramente lo viviamo con intensità, perché non faremo altro nell'eternità. Quando saremo davanti a Lui, sapete che cosa faremo? Questo che abbiamo fatto adesso, lodare il suo nome. È bellissimo. Grazie ragazzi della lode, grazie. Grazie per aiutare al suo popolo e condurlo in lode e adorazione alla sua presenza. Grazie. Un'altra volta ho il privilegio di essere qua e poter condividere con voi. E che cosa posso parlare io che non sia altro di la famiglia? So che vi siete stancati un po' da me e dalla famiglia di questo tema, però è quello che ho al cuore e credo che è nel cuore di Dio, per quello insisto con questo. Questa settimana, quando pregavo e dicevo, Signore, cosa vuoi che condivido sempre della famiglia, l'ho capito? Volevo io, mi ero proposta di condividere, di addentrare ancora di più nei ruoli dei membri della famiglia. Un po' già l'ho condiviso qua, lo abbiamo parlato, però c'è tanto da dire, tanto sui ruoli, su quello che Dio vuole per la famiglia, le funzioni di ogni membro della famiglia. Non è un tema finito, c'è molto da dire in questo. Però quando pregavo, il Signore mi ha detto, sì, sì, è importante, si deve fare, però io voglio che tu fai il focus su un altro aspetto, prima di quello. Perché noi possiamo capire molte cose da Dio, però se non abbiamo questo sistemato prima, non so se avremo le forze per andare avanti e per fare quello che Dio ci chiede di fare. Per quello io voglio oggi parlare su il patto matrimoniale, perché per parlare di famiglia dobbiamo fermarci nel matrimonio, è lì dove nasce la famiglia, dove si conforma una famiglia, dove si origina una famiglia. Però noi abbiamo bisogno di capire come Dio vede il matrimonio, perché è Lui che lo ha istituito, lo vedremo fra un po', però anche dobbiamo capire come è l'amore di Dio, l'amore che Dio vuole che noi sperimentiamo nel nostro rapporto di coppia. È fondamentale, perché ci sono molti concetti di amore. Ci sono tanti esempi di amore diversi intorno a noi. La società ha un concetto dell'amore. Questo mondo che ci circonda ha un concetto e credetemi è molto diverso di quello che è il concetto di Dio dell'amore. Però voi potete dire, però queste cose le sappiamo, le abbiamo già sentito tanto. È vero. È vero. Se tu sei giovane puoi dire oh, un'altra volta della famiglia, un'altra volta del matrimonio, devo ascoltare queste cose ancora, non ho nella fidanzata o nel fidanzato. Sai, è buono che tu lo ascolti adesso. Io provengo di una famiglia distrutta. Io avevo 5 anni quando ero davanti a un giudice che mi chiedeva con chi volevo andare a vivere, se con mio padre o con mia madre, come se un bambino di 5 anni potesse capire che cosa è meglio. Io ho vissuto un esempio di famiglia molto brutto e sbagliato. Quando ho conosciuto Dio con 16 anni, portavo un bagaglio dietro di me troppo pesante. Quello che io avevo sperimentato, l'esempio di famiglia che ho avuto a casa, è stato troppo sbagliato, troppo deviato di quello che è il piano, lo scopo di Dio per la famiglia. Secondo le statistiche, secondo la psicologia, io ero condannata al fallimento. Perché chi ha vissuto delle cose sbagliate riproduce cose sbagliate, logicamente. Però io ringrazio a Dio che Lui è venuto alla mia vita a tempo. E non è mai tarde. Credetemi, non è mai tarde con Dio. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo quando avevo 16 anni, nel tempo più difficile della mia vita. Questo io non lo racconto molto, però oggi lo voglio dire. In quel tempo io avevo 2 pensieri in mente. O mi suicidavo, o uccidevo mio padre. Questi erano i pensieri e le cose che io stavo lavorando in mente quando Dio è arrivato alla mia vita e si è fatto conoscere da me. Io sono grata a Lui per questo, perché avrei avuto una fine troppo brutta, troppo brutta. Il nemico aveva messo nella mia mente che l'unico modo di liberarmi di tutti i miei problemi, di tutto quell'inferno che vivevamo a casa, era o uccidevo mio padre e mi toglievo il problema, o mi suicidavo io e non vivevo più quello che vivevo. Lui mi aveva fatto credere che quella era la soluzione per la mia vita. Io alzo le mani al cielo e ringrazio a Lui che è arrivato in tempo. Però quando li ho conosciuto, quando sono iniziata a essere parte di un corpo come questo, di una famiglia come questa, di una chiesa, ho avuto l'opportunità di ascoltare tanti, tanti, tanti messaggi della famiglia. Era nella decada del 90. E la nostra denominazione di chiesa si chiama Comunità Cristiana. In quel periodo, io credo che per tutti i 10 anni della decada del 90, non c'era un altro tema che si predicasse in chiesa che non fosse la famiglia. Si predicava di tutti i punti di vista che si poteva predicare questo messaggio. Ogni verità della parola di Dio che parlava sulla famiglia, quello si predicava. Io avevo 16 anni, con questo bagaglio così sbagliato. Non è stato se no Dio e la sua parola a correggere, a cambiare, a modificare questo bagaglio. Ringrazio Dio per l'insistenza di quel tempo sulla famiglia, su quello che Dio vuole per la famiglia, come Dio vuole che noi ci muoviamo come famiglia di Dio. Ringrazio a Dio per questo, che hanno insistito a tempo e fuori di tempo con questo unico messaggio. Sapete, questo messaggio della famiglia è diventato carne in me, ha sceso al mio cuore e è diventato carne. Ero single, non avevo neanche l'aspettativa di avere un fidanzato. Anzi, fino a che Dio ha lavorato e ha guarito il mio cuore, io dicevo, sì Signore, Tu sei magnifico, Tu sei potente, io vedo i miracoli che fai qua in chiesa, io vedo famiglie ristorate, però meglio non provare, meglio rimango single, non sia che ripeto la storia di mia madre. Dio ha dovuto lavorare molto sodo nel mio cuore, fino a che io mi sono decisa a credere che in Lui non devo fare la stessa storia di mia madre. Non dovevo. Perché Lui è potente, perché Lui può fare cose nuove, cose che occhio non vio, né udito ascoltato, quelle cose Dio può fare. E le ho fatto. Un altro tanto nella vita di mio marito, anche lui ha conosciuto Dio vicino intorno a 18 anni, anche lui una storia difficile familiare. I suoi genitori non si sono divorziati, però l'inferno lo vivevano a casa. I miei si sono divorziati e con il divorzio non si è soluzionato nulla, perché l'inferno lo vivevamo a casa. Sapete, quando mio padre veniva a fare visita ai suoi figli e a portare un po' di soldi, quando lo faceva, tutto finiva male. Quando mio fratello e io, ho un fratello minore da me di 3 anni, quando mio fratello e io crescevamo, dicevamo meglio che papà non viene. Preferiamo non mangiare, ma meglio che papà non viene, perché almeno abbiamo un po' di pace. Preferivamo non mangiare e avere pace. Immaginate com'era la mia situazione familiare. Ma Dio ha cambiato tutto, tutto. Per quello oggi andremo, e per quello oggi io insisto con il tema della famiglia. E andremo a vedere sul patto matrimoniale. Cosa è il patto matrimoniale? Per questo andremo a leggere il primo versetto di questa sera, che si trova in Marco 10, del 7 al 9. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi quello che Dio ha unito. Di questo versetto ci sono considerazioni elementari che sorgono. Questa è una legge dalla creazione, perché questo versetto fa riferimento a Genesi 2, 24. Quando Dio ha creato tutto lì alla creazione, Dio ha detto queste parole. Di questo versetto possiamo capire che il matrimonio è monogamo, sorge dalla unione di un uomo e una donna. Non ci sono altri. Il primo matrimonio che Dio ha stabilito all'Eden era fra un uomo e una donna. La seconda cosa che possiamo capire subito è che il matrimonio è una unità totale. I coniugi si convertono in una sola carne. Questo abbraccia tutti gli aspetti dell'uomo e della donna, della vita dell'uomo e della donna. Questo ha a che vedere con la unità fisica, con la unità sessuale, con la unità affettiva, spirituale, economica, tutti gli aspetti della vita dell'uomo e della donna. È per quello che se io mi sposo, se tu ragazzo, ragazze, ti vuoi sposare, non puoi pretendere arrivare al matrimonio e essere ancora individuale. Perché io ho la mia vita, io ho la mia individualità, io ho le mie cose e quelli non li condivido con mio marito, perché io sono fatta così. Ti sbagli e molto, perché non è quello il piano di Dio. Se tu ti sposi, se arrivi al matrimonio, è perché Dio vuole una unità totale, totale. Lo tuo non è più tuo, è anche suo. E quello tuo, ragazzo, non sarà più tuo, è anche di tua moglie. Il matrimonio è stato istituito da Dio. Non è stato stabilito da una legge umana, né ideato di qualche civiltà. Non è così. È stato stabilito da Dio. Precede ogni cultura, ogni tradizione, ogni popolo, ogni nazione. Non è che noi ci sposiamo perché è una tradizione nella cultura italiana o la cultura argentina. No, il matrimonio precede anche ai popoli, alle nazioni. Dio lo ha stabilito lì, all'Eden, all'Eden. È un'istituzione divina. E Dio è chi determina le leggi che stabiliscono il matrimonio, che devono reggere il matrimonio. Il matrimonio non è una società tra due persone, dove ciascuna parte fissa le proprie condizioni. Non è questo. È Dio, per essere un'istituzione divina, chi stabilisce le condizioni dei matrimoni. Non lo fa l'uomo, non lo fa nemmeno la donna, neanche se loro due si mettono d'accordo per le condizioni. Non è quello, quello non è matrimonio. Nemmeno lo può fare o determinare le leggi di un matrimonio, una nazione, le leggi di una nazione. L'Italia, la nazione italiana, ha delle leggi, però Dio ha leggi sul matrimonio che sono sopra le leggi della nazione italiana. Perché le leggi degli uomini cambiano, ma le leggi di Dio è sempre la stessa. Tutti quelli che si sposano devono accettare le condizioni stabilite da Dio per il matrimonio. Se ti vuoi sposare, se sei sposato, se ti sei sposato, devi accettare le leggi stabilite da Dio per il matrimonio. Come Dio è amore e infinitamente saggio, tutte le sue leggi, tutte le sue norme sono per il nostro bene. Non faranno mai male alle nostre vite le leggi, le cose che Dio stipula. Sono per il bene dell'umanità, non soltanto per il nostro bene qua. Il nostro esempio di famiglia, il portare avanti le leggi di Dio, questo benedice anche la società che è intorno. Ci sono tre elementi determinanti nel matrimonio. Il primo elemento è il patto matrimoniale. Il matrimonio è un patto che si celebra tra un uomo e una donna davanti a Dio. È un patto. Dice la parola, perciò il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Questo sta scritto in Malachia 2:14. Il matrimonio è un patto, è un'alleanza. Sono due volontà che si compromettono a vivere uniti in matrimonio. Questo patto ci concentra essenzialmente con la parola impegnata. Quando abbiamo detto i nostri voti davanti a Dio e davanti ai testimoni. abbiamo impegnato la nostra parola, è lì che abbiamo fatto un patto nei voti matrimoniali. La seconda cosa che stabilisce un matrimonio è la testimonianza davanti alla società. L'uomo lascerà a suo padre e a sua madre per unirsi alla sua moglie. E per quello che parenti, amici, conoscenti devono sapere, devono essere informati che questo uomo in questa data precisa si unirà nel solenne atto del matrimonio. Per quello facciamo le cartoline dell'invito al matrimonio. Non lo facciamo solo perché così si stipula, perché così lo hanno fatto altri, per quello lo devo fare io. No, è per compiere questo aspetto del matrimonio che deve essere davanti ai testimoni. Un matrimonio non può essere fatto mai in segreto, perché questo è un elemento, il secondo elemento che determina il matrimonio. Il terzo elemento è la unione sessuale. E saranno una sola carne, dice la parola. Quello che definitivamente sigilla e dà legittimità al matrimonio è la unione sessuale di coloro che hanno fatto il patto. Perché il patto deve essere prima della unione fisica. Altrimenti questo è un peccato. Le relazioni prematrimoniali sono fornicazione, dice la Bibbia, un peccato davanti a Dio. Saranno una sola carne. Tre elementi che determinano il matrimonio. Il fondamento del matrimonio non è l'amore sentimentale, ma la volontà compromessa, sigillata con un patto. L'amore, quello che dicevo prima, ci sono tanti concetti di amore. C'è il concetto errato, anche molto generalizzato, che l'amore sentimentale costituisce la base del matrimonio e non c'è cosa più errata di questo. Questo si deve possibilmente alla influenza del romanticismo negli ultimi secoli, ma forse anche all'erotismo dei nostri tempi. Peggio ancora, questo tempo vive un erotismo che ha ucciso ogni tipo di romanticismo, perché c'è un romanticismo buono. Certamente l'amore è un ingrediente importante nel matrimonio, ma non la base della propria sussistenza. L'innamoramento può condurre a due persone al patto del matrimonio, a fare un patto di matrimonio, però questo, il matrimonio, non può essere sostentato da una emozione, come l'innamoramento, come l'amore sentimentale. Dio non avrebbe stabilito una cosa così importante come il matrimonio su base tanto instabile come i sentimenti e le emozioni. Sai, in Argentina si dice, per parlare dei sentimenti, delle emozioni, quanto instabile sono, si dice: se mi sono alzato con la gamba sbagliata, allora oggi non amo tanto. E è così, i sentimenti, le emozioni cambiano di un attimo all'altro. Io posso essere qua benissimo in questo momento e un attimo dopo posso essere giù, scoraggiata. Perché? Perché le emozioni cambiano, variano. Il matrimonio non può basarsi su una cosa così instabile come le emozioni e i sentimenti. Diverse ragioni possono modificare i nostri sentimenti: contrasti nella convivenza, cattivi modi, difetti di carattere dell'altro, la comparsa di qualcuno più interessante. Tutto questo può far cambiare le nostre emozioni e i nostri sentimenti, per nominare alcuni, perché il listino è lungo. È per quello che dopo qualche tempo molte coppie, molti matrimoni dicono: non sentiamo più l'amore di prima. Che senso ha continuare a essere insieme? Questo è quello che ci insegna la società. Questo è quello che vediamo nella società. In realtà, molto di quello che si chiama amore non è soltanto che egoismo mascherato, a volte soltanto lussuria. Arriviamo al matrimonio e crediamo che queste sono le cose importanti. Mi deve piacere, devo sentire. Se non mi sento più al mio agio con lui, allora che senso ha continuare insieme? Questo è sbagliato, questo non è il piano di Dio. Dio è creatore e lui ha creato l'amore e il matrimonio, il vero amore e il matrimonio. Lui ha creato la famiglia. Il diavolo è venuto per distruggere, rubare e ammazzare, lo sappiamo bene. Ma come lo fa? Lui non può creare nulla, il nemico non ha la capacità di Dio di creare. Ma cosa fa il nemico? Lui fa delle copie, delle brutte copie. Lui fa delle copie sbagliate, deviate di quello che Dio aveva già creato. E quello è quello che a volte noi pensiamo che questo è amore. E non è amore, è egoismo. Ci sono tre tipi di amore nella Bibbia. Ci sono molte parole, soprattutto nel Nuovo Testamento in greco, per esprimere l'amore. Però io voglio parlare di tre in questa sera. C'è l'amore filio, che è quello fraterno, è il primo amore che sperimentiamo, è l'amore familiare, è l'amore dei genitori, è l'amore dei figli, dei fratelli, tra cui l'affetto e l'amicizia. Questo è l'amore filio. Io amo perché mi sento al mio agio, perché questa persona ha i miei stessi gusti, perché siamo somiglianti, perché siamo della stessa famiglia, o diventa la mia amica perché pensiamo del mismo modo. Questo è l'amore che sperimentiamo, è l'amore figlio. Un esempio della Bibbia di questo amore, l'amore figlio, è l'Apostolo Paolo, quando lui dichiara l'amore che aveva per i fratelli della Chiesa. In 1 Corinzi 4,17 dice: appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Questo mio caro, in realtà, nella parola in greco, vuol dire figlio. Lui è il mio caro, lui è il mio figlio, il mio amato e fedele figlio nel Signore. Quella parola figlio è scritta in questo versetto. Per quello noi in chiesa, che formiamo una famiglia, che conformiamo una famiglia, ci chiamiamo fratelli e sorelle, perché sperimentiamo anche a livello spirituale nella chiesa questo tipo di amore, l'amore fraterno e l'amore figlio. Esiste anche l'amore eros, che è l'amore romantico. Il secondo amore che si verifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Questo tipo di amore lo sperimentiamo in quel tempo. L'amore che desidera, che cerca la soddisfazione sessuale. E l'amore è l'amore che dà all'interno del matrimonio. Questo amore eros è quello che Dio ha creato per l'interno del matrimonio. Fuori del matrimonio, abbiamo detto, è peccato. Dio ha fatto in modo che ci sia un forte desiderio fisico dell'uno per l'altro. Lo ha creato Dio, non è peccato. Dentro del matrimonio è santo, è puro, come Dio è santo e è puro. Questa parola eros la possiamo trovare in il canto dei cantici. Lì è pieno di questa parola, pieno, pieno. Siete sposi basati esclusivamente sull'amore eros, questo matrimonio è destinato al fallimento. Mi spiace dirlo, però è così. Dal momento che non è una buona base per resistere alle tempeste, ai disaccordi, ai conflitti che porta la unione di due esseri completamente diversi e che devono adattarsi a vicenda. Questo è quello che si forma nel matrimonio, sono due esseri diversi e si devono adattare l'uno all'altro. Anche se l'amore eros lo ha creato Dio, noi non possiamo andare al matrimonio soltanto aspettando quello, perché non è una base solida. Neanche l'amore filio è una base del tutto solida per l'esito del nostro matrimonio. Esiste un terzo amore, l'amore agape. Questo è l'amore di Dio, l'amore che proviene da Dio, soltanto da Lui. È molto diverso dall'amore umano. Le Sacre Scritture dichiarano che Dio è amore, non soltanto che Lui ama e ci ha amato con l'espressione più alta dell'amore, ma Lui è anche amore. La sua essenza è amore. La sua natura, la natura di Dio è amore, ma questo amore agape, questo tipo di amore, questo tipo, l'amore agape è l'amore divino, soprannaturale, l'amore più profondo, non dipende dai sentimenti. I sentimenti, abbiamo detto, variano. Ma questo amore agape non dipende dai sentimenti, è un amore sacrificale che dà senza aspettare nulla in cambio. L'amore agape fa che l'uomo possa realizzarsi. Non solo prende tuo cuore, l'amore agape, ma anche la mente e la volontà, coinvolge tutte e tre. Cuore, mente e volontà. Il vero amore nasce dalla volontà e diventa i sentimenti, non viceversa. Questo è un concetto sbagliato. Noi pensiamo, allora se io sento qualcosa per qualcuno, se provo qualcosa, allora è nato l'amore. E l'amore è eros, può darsi. Ma non è l'amore agape. E l'amore agape è prima una decisione e dopo viene il sentimento. Nasce prima di una decisione e coinvolge la volontà e i pensieri. L'amore umano è influenzato dalla nostra natura caduta. È essenzialmente egoista. Il nostro amore è selettivo. A preferenze. Io amo e mi sento bene con quello che mi piace, con quello che la pensa come me, a quello che è bello, a quello che è simpatico. È molto selettivo l'amore umano. A quello che è più facile amare a una persona culta, è più facile amare al ricco, al che tiene, all'importante, al virtuoso, al famoso. Viene più naturale amare a quelli, perché il nostro amore umano è molto selettivo. Invece l'amore agape, l'amore di Dio, non dipende dalle virtù dell'essere amato, ma dalla virtù dell'amante. Sono le sue virtù, le virtù di Dio. Lui ci ha amato anche quando noi eravamo deviati tra i nostri peccati. Lui ci ha amato non perché noi siamo buoni, Lui ci ha amato perché Lui è buono. Dio riversa nel nostro spirito di questo amore. Dio ci equipaggia per amare di questo modo, per amare con l'amore agape. Dio ci equipaggia per amare l'impossibile, quella persona difficile di amare, quella persona di carattere difficile. Dio ci equipaggia per amare con suo amore agape. È per quello che i suoi comandamenti non sono gravosi. Dio nella sua parola ci chiede di amare i nostri nemici. Ma se noi ci rivestiamo, se noi accettiamo e chiediamo a Dio il suo amore agape, noi riusciamo a amare i nostri nemici, perché Lui ci riveste e i suoi comandamenti non sono gravosi. Dobbiamo cercare questo tipo di amore misericordioso, sacrificale del Signore e nel Signore, perché richiede una totale dedizione, richiede impegno, richiede fedeltà e amore soprannaturale. Se hai problemi nel tuo rapporto di coppia, forse è perché sei arrivato al matrimonio soltanto aspettando l'amore eros e l'amore figlio, ma ti sei dimenticato che Dio chiede di amare con l'amore agape. Forse non sapevi neanche che Dio ha questo tipo di amore sacrificale, ma Dio te lo può dare. Lui può rivestire la tua vita con questo amore per affrontare ogni difficoltà. Se hai problemi, forse è per questo. Consciente e inconscientemente, a volte cerchiamo il piacere, il nostro proprio piacere, la nostra propria soddisfazione, il nostro proprio beneficio, tutto quello che si può ottenere dall'altra persona. Ma non sto pensando in io dare, non sto pensando nel bene dell'altro, non sto pensando in sacrificarmi per il suo bene, per l'amore, per amore all'altro. A volte arriviamo al nostro rapporto di coppia soltanto per ricevere, perché mi deve far sentire bene, perché io devo sentirmi amata, perché io devo sentire che l'altro mi riconosce, perché io devo sentire che l'altro mi sostiene, perché io. Questo è soltanto fare uso dell'amore naturale e umano, molto egoista, ma non ha nulla a che vedere con l'amore agape. Questo concetto erroneo fa che nel nostro evoluto secolo XXI molti matrimoni continuano a crollare per mancanza di un fondamento. La volontà compromessa è il fondamento del nostro matrimonio. Non è l'amore il fondamento del nostro matrimonio. Ho portato una slide per far vedere su questo. E vediamo qui che una struttura instabile per il matrimonio è quando noi mettiamo l'amore e i sentimenti come la fondamenta. Questo è instabile. Se questo deve sostenere il matrimonio, crollerà facilmente. Ma un fondamento fermo è l'amore per il matrimonio e la volontà compromessa. Se io ho come fondamenta la volontà compromessa, il patto che io ho fatto nei miei voti, se quello è la mia base ferma, allora questo sostiene il matrimonio e allora è il matrimonio che sostiene l'amore. Io non amo per unirmi in matrimonio, io amo perché sono stata unita in matrimonio. È alla inversa, il concetto in Dio è totalmente alla inversa. È vero, non sempre possiamo controllare i nostri sentimenti, però la nostra volontà sì. Dio ci ha dato la capacità di controllare la nostra volontà. Con la nostra volontà ferma noi possiamo mantenere e sostenere il nostro matrimonio con lealtà e fedeltà al patto che abbiamo fatto nel momento di sposarci. Se Cristo Gesù è il Signore della nostra vita, il Kyrios della nostra vita, allora la nostra volontà è sottomessa al Signore. E lì abbiamo garantito l'esito del nostro matrimonio. C'è stato un teologo luterano tedesco, Dietrich Bonhoeffer, che scrisse alla sua nipote in occasione delle proprie nozze: non è il vostro amore quello che sostiene il matrimonio, ma d'ora in avanti è il matrimonio che sostiene il vostro amore. Questa è la fondamenta solida, forte. Quando il fondamento che sostiene il matrimonio è la volontà compromessa, la unione diventa solida, ferma. E dietro di questo sigillo affiora il vero amore. Cresce e si rende stabile. Si può vivere l'amore agape nel matrimonio con l'aiuto di Dio. E si può godere anche dell'amore eros, perché Dio lo ha creato per il matrimonio. Ma non è quello il fine del matrimonio. Dobbiamo imparare, cercare da Lui a amare con l'amore agape. Dio vuole che noi godiamo dell'amore romantico, dell'amore eros, dell'amore fisico, perché Lui lo ha creato. Tutti i canti, canto dei cantici è pieno di questo. Troviamo anche lì nel canto dei cantici 4:10 che dice che le carezze della moglie sono migliori che il vino. Possiamo anche ubriacarci dell'amore. Ma quando ci sono le difficoltà, quando ci sono i rossi dei caratteri, lì abbiamo bisogno dell'amore agape, dell'amore sacrificale, dell'amore che pensa nell'altro, dell'amore che sceglie rinunciare a se stesso per amore, per amare come Dio vuole che amo all'altro. E la ultima cosa che in questa sera voglio dire è che il matrimonio è un vincolo sacro e indissolubile. E voglio leggere 3 versetti, con questo finisco. Dio il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2:22-24. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Matteo 19:6. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. 1 Corinzi 7:39. Questi passi indicano con chiarezza che il vincolo è una unità totale, fortissima. Il vincolo del matrimonio è una unità totale. L'uomo e la donna diventano una sola carne. Questo anche ci dice che il vincolo è stato creato dallo stesso Dio, quello che Dio unisce. Per questo si considera sacro il patto del matrimonio. Questo è anche un vincolo indissolubile mentre i due coniugi vivono. Solo la morte di uno di loro due lo può sciogliere. E anche ci dice che nessun uomo o legge umana ha la facoltà di dissolvere il vincolo matrimoniale. Non lo separi l'uomo. Chiunque lo fa deve sapere che si sta rivelando direttamente contro la volontà di Dio. Dio è molto chiaro nella sua parola. E Dio è molto buono con noi. Lui vuole il meglio per noi. Lui vuole il nostro bene. I suoi comandamenti non sono gravosi. Sono buoni per noi. Vogliamo vivere delle famiglie forti, vogliamo avere matrimoni stabili. Andiamo a Dio, cerchiamo il suo amore agape, perché con l'amore umano non è abbastanza, ma in Lui possiamo averlo tutto, tutto. Si può vivere una vita piena di gioia, una vita piena di felicità con Dio, ma devo togliere lo sguardo di me stessa. Se io guardo soltanto me, quello che io ho bisogno, quello che a me serve, quello che io necessito, e l'altro mi deve far sentire bene, e l'altro mi deve dare, perché è il mio marito, allora mi deve dare, mi deve far sentire bene, e ho bisogno io. Questo è sbagliato, questo non è amore, questo è egoismo mascherato. Questo è il bagaglio che portiamo dalle nostre famiglie, questo è il bagaglio della cultura di questo mondo, ma non ha nulla a che vedere con la cultura del regno. Io ho dovuto imparare queste cose, fratelli e sorelle, e ringrazio Dio che me le ha insegnato a tempo e anche a fuori di tempo. Senza di Lui non possiamo fare nulla, senza di Lui è impossibile vivere l'altezza di amore che Lui ci chiede. È soltanto di Lui che possiamo ricevere questo, perché la nostra natura è caduta. La nostra natura cerca il proprio bene, il proprio benessere, la propria soddisfazione, e non mi interessa nulla dell'altro. Perché i litigi non si possono risolvere? Perché voglio vincere io e l'altro vuole vincere lui, e così non si risolve nulla. E che le cose si fanno più grandi, perché abbiamo lo sguardo troppo messo su di noi, su me. E Dio ci dice: alza il tuo sguardo. Dobbiamo alzare il nostro sguardo e guardare più in là. Dobbiamo guardare all'altro. Se ho fatto un patto, se ho fatto un compromesso, ho compromesso la mia volontà, io devo mantenere questo patto a ogni costo. Devo rinunciare a me stessa per il bene dell'altro. Questo è il vero amore. Questo non è perdere, fratelli e sorelle. Il mondo ci fa credere che uno è tonto, è stupido, si rinuncia sempre. Non è vero. Dio vuole che noi rinunciamo per amore dell'altro, per il bene dell'altro. Io devo pensare nel bene di mio marito, non nel mio. Se io penso nel bene di mio marito, allora Dio benedice quello, eppure mi dà quello che io ho bisogno. Ma non devo arrivare al matrimonio pensando prima nel mio bisogno. Io devo amare all'altro, devo pensare nel bisogno di mio marito. Cerca l'amore agape, prega, cerca, inginocchiati, chiede, clama, chiede a Dio: Signore, rivestimi del tuo amore, perché con il mio non ce la faccio. Sì, è così. Con il proprio non ce la facciamo, ma con l'amore agape suo sì si può. Se può, non c'è difficoltà che non si possa risolvere se abbiamo l'atteggiamento giusto, quello che Dio ci chiede. Non c'è problema grosso che non si possa risolvere. Tutto ha soluzione con Dio, in Dio e con l'atteggiamento giusto. Alziamoci in piedi e preghiamo adesso. Signore, io ti innalzo in questa ora. Signore, io ti lodo. Signore, io ti ringrazio. Ti sono riconoscente per il privilegio che mi hai dato da temprana età, quando ero una giovane, una ragazzina, aver potuto ascoltare queste verità, la verità della tua parola per la famiglia, la verità della tua parola per il rapporto di coppia, la verità del tuo amore, che è molto diverso del nostro amore. Signore, grazie, perché io ero condannata al fallimento, ma tu mi hai dato una nuova opportunità. Tu hai fatto nuove tutte le cose nella mia vita. Grazie, grazie Gesù, grazie. Io ti chiedo questo per la tua chiesa, io ti chiedo questo per la tua famiglia. Gesù, scende con il tuo amore agape, perché il nostro egoista è miserabile, è povero, è molto limitato, Gesù. Noi cerchiamo il proprio bene, secondo la nostra carne, la nostra natura caduta, guardiamo sempre noi, mettiamo noi al primo posto e non è quello che tu vuoi. Gesù, facci capire questo. Non c'è difficoltà più grossa che non si possa risolvere con il tuo amore agape. Scende Gesù, scende. Scende su di noi, riempici del tuo amore agape. Abbiamo bisogno di te, Signore, abbiamo bisogno di metterti al primo posto e di fare quello che tu ci insegni, di fare i tuoi comandamenti, perché non sono gravosi, perché in te si possono fare, Signore, perché in te possiamo conquistare il nostro matrimonio, un matrimonio felice. Non come questo mondo ci insegna, non come ci insegnano i film, la TV, ma come tu ci lo insegni nella tua parola. Rivesteci del tuo amore agape. Scende Spirito Santo, riempici, aiutaci a negarci a noi stessi e a mettere all'altro per prima. Aiutaci, Padre. È vero che tu hai creato l'amore eros, ma non può essere la base del nostro matrimonio, neanche l'amore filiale, fraterno, neanche questo può essere la base del nostro matrimonio. Aiutaci a ricordare che abbiamo fatto un patto, che c'è una volontà compromessa davanti a te, lo abbiamo fatto davanti a te, i testimoni. Signore, aiutaci a avere regole chiare come famiglia cristiana. Aiutaci a metterci regole chiare. Signore, divorzio, separazione, neanche si nominano fra di noi. Così dovrebbe essere. Signore, dobbiamo imparare. Aiutaci, Gesù, aiutaci. La separazione, il divorzio non sono opzione per i tuoi figli. Aiutaci, Padre, aiutaci. Con te si può, con te si può. Lo posso testimoniare io che avevo tanta paura di affrontare una famiglia, di iniziare un matrimonio. Perché questa società, questo mondo, la psicologia, le statistiche dicevano che andavo al fallimento. Avevo paura io del fallimento. Ma con te ho imparato che si può, si può. Ma dobbiamo alzare lo sguardo e guardare all'altro e mettere all'altro per prima, mettere te per prima e mettere al coniuge per prima, non a noi stessi. Toglieci l'egoismo, Gesù, la lussuria, che sono imitazioni, copie brutte di quello che è il tuo amore, il vero amore, l'amore agape, nel nome di Gesù.